Radio 24 presenta Platone, la caverna dell'informazione di Leonardo Manera. Sabato 9 agosto, benvenuti a Platone, la caverna dell'informazione. Ci occupiamo di notizie, di commentare le notizie. Abbiamo i nostri ospiti più o meno fissi qui a Platone tutte le settimane. E anche oggi siamo in compagnia di Alessandro Milan. Buongiorno Alessandro. Eccomi qua Leonardo, buongiorno a tutti. Nostro giornalista di riferimento che ci porta sempre notizie più interessanti, più curiose da commentare. Per esempio, con cosa cominciamo questa settimana Alessandro? Allora, molti di voi sono in ferie in questo momento. C'è da dire che è stata un'estate iniziata proprio, come dire, a singhiozzo, diciamo così, per le grandi precipitazioni che ci sono state a luglio soprattutto. E pensa Leonardo che hanno già stimato quanto ci è costato il sole che è mancato fino a questo momento. Questa cosa non l'ho mai capita, perché il sole che manca causa... Disdicono le prenotazioni, gli alberghi, gli stabilimenti vuoti, tutto l'indotto, i ristoranti, le località di vacanza. Insomma, si è già stimato in 1 miliardo e anche i danni all'agricoltura, ovviamente, i danni a tutte le coltivazioni. Quanto ci è costato? 1 miliardo di euro. Per il sole che non c'è. Esatto. Quindi danno... facciamo causa al sole. Facciamo causa al sole. Alessandro Milan, come sei preparato? Quasi quasi mi eccito. Ecco, ecco, facciamo causa al sole, non diciamolo troppo forte. Perché potrebbe essere una cosa che... Il sole è quello che sta in alto, no? Ti ricordo che sei nella radio del Sole 24. Facciamo causa al sole a Helios. Chi è che ci chiama? Pronto? Ah no, è una telefonata. Infatti noi stiamo per parlare con una persona al telefono che ci raggiungerà fra poco. Allora. Perché se molte persone insomma non possono andare in vacanza perché non c'è il sole, invece ci sono anche molti altri che fanno di tutto per continuare a lavorare e per inventarsi anche lavori in questo periodo così complicato appunto per certo. Il lavoro. Adesso, e appunto... al 25° squillo risponderà adesso. E noi ne abbiamo proprio uno al telefono, Giorgio Zanetti, buongiorno. Buongiorno a lei, buongiorno a lei. Guardi, sì, è vero, io proprio non c'ho paura di lavorare. Anche perché a volte si sente dire che ci sono i lavori che gli italiani non vogliono più fare, allora li fanno solo gli extracomunitari. Non è vero, guardi, io faccio i lavori che non vogliono più fare neanche gli extracomunitari. Può farci qualche esempio? Sì, ad esempio recentemente ho fatto il controllore di qualità di cibo per gatti. Cioè in pratica bisogna andare dove ci sono le vasche di cibo per gatti, no? E annusare che ci sia il cibo fresco. Nel caso che vi siano dei dubbi, bisogna mangiarlo, cioè lo devi assaggiare per capire se è fresco o no. Sembrerebbe un lavoro disgustoso. Disgustoso, a me piaceva, perché avevo sempre un po' di nausea, no? Così quando tornavo a casa non c'avevo mai fame e riuscivo anche a risparmiare sul cibo. In più mi sono messo in forma, guardi, in quel periodo lì sono dimagrito quasi 10 kg in 20 giorni. E quindi anche questo è un lavoro che ha degli aspetti positivi? Ma certo, ma assolutamente. A tutti quelli che si lamentano che la palestra costa tanto, che spendono un sacco di soldi per restare in forma, io dico una cosa: andate per un mese a fare il controllore di cibo per gatti, vedete che vi rimettete subito in forma, altro che palestra. E questo è un lavoro che non ha controindicazioni? Ma guardi, l'unica cosa è che sotto casa sua c'è sempre pieno di gatti che ti fanno le fusa, sarà per l'odore che rimane del cibo per gatti, però va bene, guardi, perché così quando ti torna la fame ne prendi uno e te lo puoi mangiare. Quindi a lei è capitato anche di mangiare dei gatti? Ma guardi, dopo che per anni ho provato lo spunti, adesso posso davvero mangiare di tutto. Ecco, oltre al controllo di qualità di cibo per gatti, che altri lavori ha fatto? Beh, dunque, ad esempio un lavoro di quelli tossici che ho fatto è il pulitore di bagni chimici. Sì. C'è presente quei bagni chimici, quelli dove bisogna tirare la manovella? Quello lì è un lavoro veramente schifoso. E quindi è un lavoro che sconsiglia a tutti? No, io lo consiglio a tutti. Perché? Dico, ma sa quanta roba cade dentro i bagni chimici? Telefoni, portafogli, anelli, catenine. Solo che se la roba cade nei bagni normali, poi va via nello scarico e chi si è visto si è visto. Invece, nei bagni chimici, la roba resta lì, solo che chi la perde non c'ha mica il coraggio di andarla a recuperare, perché va in fondo, se no c'ha schifo, e allora preferiscono lasciarla lì. A quel punto cosa succede? Subentro io, entro con la muta e recupero tutto. Guardi che come stipendio mi davano neanche 1.000 euro al mese, ma con quello che ho recuperato arrivavo a 5.000, altro che palestra! Ah, vabbè, cosa c'entra qui la palestra? Ma no, ma dicevo così per dire, perché secondo me quelli che vanno in palestra sono tutti dei fighetti. Senta, qual è il lavoro più disgustoso che ha fatto? Secondo me il masturbatore di animali. Praticamente, le spiego, serve quando i padroni vogliono fare la fecondazione artificiale e gli animali da soli non ce la fanno. oppure serve per gli esami di laboratorio. Sa con quanti animali l'ho fatto io? Cavalli, tori, pecore, zebre. Una volta mi è capitato anche un ippopotamo. E questo è un lavoro veramente disgustoso, insomma, non c'è niente da dire. Disgustoso per me no. No, neanche. No, perché a forza di frequentare gli animali nell'intimo tu ci entri in sintonia, li conosci meglio. Altro che quelli che vanno a fare i safari fotografici. Quelli lì sono dei fighetti, come quelli che vanno in palestra. Ecco, invece di fare i safari fotografici, andate in giro a masturbare gli ippopotami, che conoscete meglio gli animali. Quindi trova qualcosa di positivo anche in questo lavoro? Assolutamente sì. Sì. In più, guardi che l'animale non sembra, ma capisce. E instauri un rapporto che poi diventa quasi umano, di affetto. Guardi che alla fine mi sono trovato meglio con l'ippopotamo che con la mia ultima fidanzata, che era una stronza che andava tutti i giorni in palestra. Posso chiederle perché non è finito bene con la sua ultima fidanzata, mi sembra di capire? Sì, non è finita bene perché primo non le piacevano i gatti, ma intendo proprio come sapore, eh. Poi si lamentava dei regali che le facevo, telefonini, portafogli, catene di orologi, insomma, diceva che avevano sempre un cattivo odore e non li voleva mai, ma soprattutto la goccia che ha fatto traboccare il vaso è che era gelosa dell'ippopotamo. E quindi concludendo possiamo dire che per chi ha buona volontà si trova sempre da lavorare? Ma certo, basta avere un po' di inventiva e buona volontà, il lavoro si trova, l'importante è essere ottimisti, ma soprattutto non perdere tempo a andare in palestra. Vuole dire qualcos'altro? Se mi permette, approfitto della vostra emittente per salutare Marcello. Chi è Marcello? È l'ippopotamo. Va bene, non sappiamo se l'ippopotamo ascolta Radio 24, ma la ringraziamo per aver partecipato a Platone. Grazie a Giorgio Zanetti. Ma che rebbe, a voi, fate belle cose. E allora continuiamo con le notizie, Alessandro Milan, vediamo, l'estate è anche sempre il periodo degli spettacoli, delle mostre, delle manifestazioni di vario tipo, abbiamo qualche cosa che riguarda la cultura in generale? La cultura, ma tu lo sai Leonardo che di recente è stata sventata una mega truffa ai danni della regione Marche, perché... nello scorso maggio qualcuno aveva detto di aver trovato in provincia di Macerata una copia, la terza copia dell'Infinito di Leopardi scritto di suo pugno, no? E la regione stava comprando tutto mettendo 150.000 euro perché ovviamente la regione Marche, no? Patria di Leopardi, la compriamo avere, noi, certo. Insomma, è stata sventata all'ultimo quando a un'approfondita analisi si è scoperto che invece era un po' come le famose teste di Modigliani. Una vera truffa e la regione era già pronta a dare 150.000 euro per appropriarsi di questa terza copia dell'Infinito. Beh, deve essere stato un bravo falsario perché anche solo riprodurre una carta che sia il tipo di carta che sia credibile per l'epoca. Certo, infatti stava per essere battuta all'asta, la regione è intervenuta e ha detto no, non battete l'asta, la prendiamo noi la regione, e allora hanno finto di fermare l'asta dicendo beh effettivamente c'è la regione Marche, diamo, si mettevano d'accordo per 150.000 euro, poi una studiosa ha fatto un'indagine approfondita, ha detto oh, ma che state a comprare? E allora a proposito di cultura, noi siamo oggi con l'assessore di una piccola cittadina, Gottarello, che ha preso un'iniziativa particolare, ha abolito l'assessorato alla cultura e invece ha introdotto l'assessorato al passatempo. Come mai questa iniziativa? Sì. Buongiorno assessore. Ha visto come la cultura te può fregare? Sì, ha visto? Questo è vero. Noi abbiamo assunto questa iniziativa perché oramai la cultura è una cosa superata. Oramai da studiare poesie di Dante Olivieri o del Petacca non gliene frega più niente a nessuno. La gente se può divertire. E poi fare cultura in quel modo vecchio è discriminatorio. Sembra che da una parte ci stanno quelli culturati e invece dall'altra che ci stanno le bestie. Noi volemo diminuire, anzi azzerare le differenze. Vabbè, questa è anche un'iniziativa lodevole. In che modo intendete farlo praticamente? Allora, volemo fare delle iniziative che possano essere del massimo gradimento sia al professorone che al popolino. Siamo stufi di queste mostre d'arte contemporanea dove anche se te metti due ore davanti al quadro non ci capisci un cazzo. Vabbè, insomma. C'è stata linea a un punto e ti dicono che è la rappresentazione dell'uomo in mezzo all'infinito. Ma si rende conto? Io devo pure pagare il biglietto per una cavolata simile. Ma se vuoi, io se vedo un punto e una linea penso che è un bambino che sta imparando a geometria. Non posso pensare che è un grande artista di sta cazzo di arte contemporanea. Ho capito, non apprezza l'arte contemporanea. Ma manco per idea. Come quando a Biennale di Venezia ti fanno le installazioni, ti mettono per terra una serie di cartacce appallottolate e ti dicono che è una metafora della vita che si consuma. Guarda che se vieni nel mio ufficio Dentro al cestino ci trovi montagne di metafore della vita. Con 20 o 30 euro te puoi portare a casa tutte le metafore dell'ufficio che te pare. Va bene, abbiamo capito. Quindi voi nel vostro assessorato al passatempo cosa organizzate? Organizziamo dei passatempi. Per esempio, ultimamente abbiamo organizzato con l'assessorato al passatempo un percorso di gonfiabili per i bambini, dove i ragazzi già avevano lungo il percorso delle freccette che potevano tirare su dei quadri fatti dagli artisti locali di arte contemporanea. Quello che con le freccette beccava più quadri alla fine aveva il diritto di bruciarlo o di distruggerlo nel modo che riteneva più opportuno. Pensi che bellezza! Bruciarlo, distruggerlo! Basta! Sfrantumarlo! Abbiamo capito che non apprezza molto l'arte contemporanea. Ma mica solo io, guardi, no. Non ci avevamo mai avuto tante prenotazioni. La gente è entusiasta. Quello che la gente vuole è una nuova, innovativa cultura moderna. E a Gottarello la possiamo ritrovare. Va bene, grazie all'assessore. Grazie a voi. Grazie. All'assessore Birolli, che abbiamo visto particolarmente infervorato su questi temi, e quindi noi, anche per riprenderci, ci fermiamo un attimo e ascoltiamo il traffico. Uomo, desideri un liquore in grado di produrre in pochi attimi effetti devastanti anche sul tuo linguaggio? Allora regalati o fatti regalare la grappa di Pietro, la grappa ideale per concludere una serata con amici senza badare ai congiuntivi. Grappa di Pietro, poi a fine cena potrai dire: se io avrebbe mangiato da un'altra parte, mi fossi divertito di meno e non avrebbe potuto digerire. Grappa di Pietro, la grappa ideale per concludere una serata con amici senza inibizioni verbali e in completa libertà di parola. Platone, la caverna dell'informazione. Bentornati a Platone, la caverna dell'informazione. Hai sentito, Ale, l'assessore Birolli come aveva in odio la cultura, non la cultura, l'arte contemporanea? Devo dire che sì, fa delle iniziative meritorie nel suo comune. Vorrei proprio andare a trovarlo. Però sai che l'arte contemporanea spesso viene criticata, certo, però certo. Ha un suo senso. E lì hanno trovato un modo per superare tutte queste diatribe. Per esempio, c'è stato nel dopoguerra tutti i pittori che facevano l'arte gestuale, sembravano semplicemente dei colpi di pennello sulla tele, ma aveva un senso. Secondo l'assessore Birolli non lo so. No, il senso qual era di queste pennellate date con violenza sulla tela? Era il dramma interiore dell'uomo appena uscito dalla guerra. Vallo a dire all'assessore, anche lui sui fogli in ufficio ha delle pennellate di rabbia. Quindi sembra il tipo, dei grandi artisti come Emilio Vedova, per esempio, che è famoso per dare queste pennellate con rabbia sulla tela degli anni 50, che tutti dicono magari lo farebbe anche mio figlio. In realtà rappresenta un momento anche storico, perché poi ogni corrente di arte va anche collegata al periodo storico che si va vivendo, insomma. Vedete come facciamo cultura qui a qui facciamo della grande cultura, sembra pizza e fichi, ma invece insomma anche noi un pochino su alcune cose ne sappiamo. Però invece, per avere anche altro di cui parlare, non solo noi due, abbiamo invitato qui Diego Parasole. Buongiorno Leonardo, buongiorno a tutti gli ascoltatori di Radio 24. Allora, noi ci occupiamo, ormai siamo entrati in agosto da più di una settimana, quindi vogliamo occuparci anche di temi prettamente estivi. So che tu hai da commentare qualcosa in merito, insomma qualcosa che riguarda proprio l'estate. Sì, perché io torno da una settimana di vacanze e sono stato, come moltissimi italiani, al mare. E al mare, sarà anche per l'ambiente, eccetera, ti viene da mangiare il pesce, è vero. Si mangia più volentieri al mare che in città. Si mangia più volentieri al mare che in città, e però questo mi inquieta, perché leggevo proprio in questi giorni uno degli ultimi rapporti dell'ONU, della FAO, sul pesce. Il pesce che noi mangiamo è in esaurimento. Dice più o meno la FAO che nel 2048, se continuiamo a pescare così, nei nostri mari ci saranno solo meduse, alghe, vermi e probabilmente razze e scilipoti che, pur di non scomparire, saranno passate dal gruppo misto ai gasteropodi per la libertà. Cominceremo anche noi a mangiare le alghe. Sì, probabilmente dovremo mangiare le alghe, perché, pensa, ogni anno il mare è in grado di produrre solo 13 kg di pesce all'anno a testa e noi ne consumiamo invece 17. Il pesce sta diventando un prodotto sempre più da ricchi. Probabilmente fra qualche anno in centro a Milano troveremo le pescherie bulgari, e a Milano, oltre che la settimana mondiale della morte, moda ci sarà anche quella mondiale del pêche à porter Milano vende trota, probabilmente. Pêche à porter. Eh sì, probabilmente sarà questo. E in effetti, se ci pensi, noi mangiamo molto pesce, lo consideriamo sempre più un prodotto industriale e sempre meno un prodotto, un animale che ha i suoi ritmi di vita. Me ne sono reso conto un po' di tempo fa quando ho portato mia figlia all'acquario di Genova e mi ha detto: voglio andare a vedere i bastoncini. Io le ho indicato la vasca dei merluzzi, mi fa: ma questi sono i bastoncini? Ho detto: no, questi sono i merluzzi. E lei subito: come mai non sono impanati? Ecco, perché pensiamo al pesce come un prodotto. Allora, forse dobbiamo incominciare a mangiare un po' meno pesce, e i dati ci dicono che dobbiamo mangiare soprattutto pesci di piccola taglia, che si riproducono facilmente, velocemente, e hanno anche meno sostanze tossiche. Quindi il mio invito è: se siete al mare, se potete, mangiate meno pesce e sceglietelo con cognizione di causa. Grazie Leo, mi hai tolto le parole di bocca. Grazie a Diego Parasole per venirci a trovare, per essere venuto anche oggi qui negli studi di Radio 24. Ciao Diego. Ciao. D'estate si va in giro, si va in vacanza, si mangia pesce, ma i problemi dell'Italia a volte restano. Abbiamo un articolo di Libero. Sì, che in realtà copiava il Sole 24 Ore. Lo dici perché sei un aziendalista, è inutile negare. Ma no, ma è vero. Vuoi fare bella figura col direttore. Dice direttore napoletano. Ecco, napoletano. Quindi c'è Alessandro Milan che sta facendo fare bella figura al Sole 24 Ore perché si aspetta un aumento di stipendio. Corposo. E anche una fascia oraria diversa. Non vuole più lavorare al mattino presto perché è una persona fondamentalmente pigra, inadatta al lavoro, quindi vuole iniziare verso le 11 nella fascia di Nicoletta Carbone, ecco. Prendere il posto di Essere e Benessere e relegare di Essere e Benessere, si è rimasto indietro di Cuore e Denari, di Cuore e Denari, e vuole relegare Nicoletta Carbone e Deborah Rosciani. Deborah Rosciani, un bel nome. Come ti chiami? Deborah Rosciani. Leonardo Manera, io ti amo, io ti amo. Questa non è Deborah Rosciani. No. Vuole relegare Nicoletta Carbone e Deborah Rosciani alle 6, va bene? Che film che ti sei fatto, su basta aver detto il Sole 24 Ore e guarda te che film che ti sei fatto. No, comunque cosa dice questo articolo di Libero ripreso dal Sole 24 Ore? È il contrario, l'articolo del Sole è ripreso da Libero. Okay. Allora, il Sole 24 Ore è andata a spulciare le 18 milioni di pensioni che diamo in Italia e ha scoperto che ci sono moltissimi che sono pensioni di invalidità. Beh, questa non è una novità. Esatto, però è andata a vedere città per città. Allora sappi che a Oristano, con 32.000 abitanti, il 9% della popolazione ha una pensione di invalidità. Sono una grande quantità, come mai è proprio Oristano? Non c'è un motivo. Non lo so. Al secondo posto un'altra città però sarda, Nuoro. 7%, 7,8% degli abitanti hanno una pensione di invalidità. Poi Lecce, Reggio Calabria, Messina, Cosenza, Pescara, Benevento, Crotone, Catanzaro, Terni, questi i primi posti. Sassari, Perugia, Ragusa. Insomma, c'è da dire che effettivamente una pensione su tre va a finire tra Campania, Puglia e Sicilia. Questo è giusto per non sfatare un mito. I luoghi comuni, che talvolta in questo caso sono anche confermati dai numeri, insomma. Effettivamente un po' così. È inutile negarlo. Sono tutte città del sud. Io conoscevo una persona che si fingeva cieca e ha preso la pensione non solo per sé, ma anche per il suo cane guida che aveva i piedi piatti. Mi piace questa. Doppia pensione. Doppia pensione. Ma in Italia non siamo tutti così. Bisogna sfatare questi luoghi comuni. Ci sono anche tanti lavoratori che si alzano la mattina alle 5:30 per arrivare alle 5 per arrivare a lavorare in tempo, in orario. Vediamo se qualcuno di questi lavoratori ce l'abbiamo al telefono. Chissà, pronto? Pronto, chi è l'apparecchio? Battista, no. Buongiorno. Battista, da Cavaglione Veronese, agente di commercio, no? Oh. Ma adesso mi sto andando a lavorare all'estero, perché in Italia, lasciami dire, Mila, il governo ti chiede le tasse, ma non ti dà i servizi, no? Se devi fare una lastra in un ospedale pubblico ti vogliono 5 mesi di attesa, per un'ecografia 6 mesi, per un parto 9 mesi di attesa ci vuole, Mila. È un parto, capisci, sacco. Questo? Poi ogni bambino che nasce ha già sulle spalle 30.000 euro di debito pubblico. Ormai sta avvenendo una mutazione genetica, la prima parola che dice il bambino nella vita non è mamma, è Equitalia, capisci, Mila? Equitalia, effettivamente. E poi anche ci vogliono troppi permessi, troppe firme per aprire un'attività. Mio cognato voleva aprire una rosticceria a Cavaglione Veronese. Sì. Gli hanno chiesto una montagna di firme, mancava poco che diano le firme anche ai Polerosto, capisci, Mila? Più o meno, sì. Questo è vero, Battista. Mio cognato voleva aprire un ristorante a Cavaglione Veronese, doveva mettere bagno per gli uomini, bagno per le donne, bagno per i disabili, bagno per il personale, tutti a norma. Sembra che i clienti non andavano al ristorante per mangiare, sembra che andavano al ristorante per andare a cagare, Mina! Capisci? Dovevo mettere 4 bagni? È la burocrazia! Ma che burocrazia è burocrazia? Sei tu che sei amico dei burocrati, ma Mina! Ma no, io no, Battista! Mio cognato voleva aprire un bar a Cavaillon Veronese, doveva sì. fare il corso per somministrare cibi e bevande, sì. esibire la licenza, il permesso dei nuclei antisofisticati. Tutto in regola, poi vai nel bar vicino, quello dei cinesi, la licenza l'ha scritta loro sulle piastrelle col bagno, del bagno col pennarello, capisci Mina? Vabbè, adesso i luoghi comuni, E cosa fa adesso mio cognato? È all'ospedale psichiatrico, vabbè, non ce l'ha fatta, insomma, e poi si lamenta se porto i soldi all'estero. Io non porto all'estero per evadere, li porto all'estero perché se vado all'estero non mi fido a lasciarli da solo in Italia, che gli può succedere qualsiasi cosa. Perciò chi porta all'estero i soldi non è un evasore, è un sentimentale. Capisci Mina? Perché ho paura che succeda qualcosa, come è successo a mio cognato. Ciao Mina, ricordi, non ti ascolto mai la mattina. Ovvio, come sempre. Battista, questo era il nostro ascoltatore affezionato Battista, che ogni settimana ci chiama, e noi invece abbiamo un inviato che mandiamo ogni settimana nei luoghi tipici dell'estate italiana, è il nostro Ratko. Ratko, buongiorno. Buongiorno. Buongiorno Manera, Milanne, amici di Radio 24. E oggi mi trovo, sai dove mi trovo adesso? Dove, Ratko? Non è una meta turistica, ma è un luogo di passaggio, è posto che rispecchia molto il vostro paese. Sarebbe questo luogo? È Autogrill. In che senso? Rispecchia il vostro paese perché Autogrill è come il vostro Parlamento. 3-4 lavorano e tutti girano a vuoto a fare un cazzo intorno. Così. Va bene. Comunque, in questo momento di populismo lei è diventato italiano al 100%, Ratko. E allora se te mando a fanculo divento anche capo dei 5 Stelle. Allora... Senti, guarda, prima cosa che una notte entrando in Autogrill è che come sei entrato non puoi più tornare indietro. Questa è una cosa fantascientifica, cioè tu entri, dimentichi i portafogli, no, ma ti conviene rubare merci piuttosto che fare tutto il giro di chilometri e chilometri per uscire a prendere. Ma perché questi marchingegni si chiamano tornelli se tornare non te fanno? Cioè non ha senso, capisci, Manera? È come se Minitti, con tutto quello che ha combinato, invece di Nicole si chiamasse Virginia. Cioè, la povera Nicole Minetti. Ma vabbè. Sì, non ha senso. Appena arrivi dentro in Autogrill, ci metti piede dentro, e allora là te trovi in mezzo a maiali che suonano, pupazzi che te salutano, dischi de Marco, i Primitive. Manera, roba che neanche a festa per anziani e durazzo si usano più queste robe qua. Poi fai 2 passi, cosa vedi? Roba di mangiare, vedi vasi di Nutella da 50 kg, confezioni di cioccolato Kinder da 2,5 metri, e pensi, ma chi cazzo viene a fare spesa qua? Giuliano Ferrara? Che non è normale. Poi ti giri un attimo e vedi una fila di persone immensa, neanche non si vede fine. Ma siccome Ratko è curioso, ho preso un monopattino che era accanto a Dischi De Mali in regalo con cioccolato e sono andato a vedere. E cosa c'era? Ebbene, tu lo crederai, Manera, ma coda finiva dove cominciavano panini. Tutti con nome diverso, tipo di pane diverso, ingredienti diversi, e dietro bancone uno che ti guarda con braccia incrociate e ti chiede: ha scelto? Ho scelto. Ma mi scade il permesso di soggiorno prima che riesca a capire che cazzo mangiare. Saranno stati 100 tipi di panini diversi. Ma come fai? Quando arrivi a fine a leggere, ma ti sei dimenticato com'erano quelli all'inizio. Ma sai, Manera, che c'è gente che si porta a mangiare da casa mentre decide che panino prendere? Sì, mi sembra un po' esagerato, ma Ratko. Ma no, è così. Quale esagerato? Poi, finalmente, quando hai fatto coda, là, che hai sputato sangue, arriva il tuo momento, dici, allora, me da questo, voglio uno bufalino? L'uomo dietro il bancone ti guarda e ti dice, ha fatto scontrino? E allora capisci dove andava a finire quella cazzo di fila parallela in senso contrario. Vabbè, detto così sembra una situazione terribile, il preambolo di una rissa, diciamo. Quello che ho detto anch'io a giudice, Manera. Adesso qua mi prendono impronte digitali e ci sentiamo più tardi. Questo è il nostro Ratko, che ogni settimana ci parla dei luoghi tipici dal suo punto di vista dell'estate italiana. Si trova sempre in situazioni un po' al limite. E oltre a volte. E allora noi invece ci consoliamo per un momento pensando ai politici di una volta, che ormai non ritroviamo più, perché quelli di adesso sono tutti nuovi, conosciamo poco di loro. Per esempio, dimmi il nome di 5 politici di Forza Italia. Di Forza Italia, ma te l'ho già fatta io questa, di Forza Italia. Allora, di Forza Italia direi Verdini. Sì. E poi Bianconi. Sì. E poi Santanchè. Sì. E poi mannaggia, Prestigiacomo. Dai che ne manca uno. Vabbè, la Pascale, dai. Io aggiungo anche Mara Carfagna. Mara Carfagna, è vero. che non ha abbandonato la nave ma è rimasta con Silvio Berlusconi. Allora invece sentiamo come parlavano i politici, ormai possiamo già dire di una volta, nel carrello dei bolliti. Il carrello dei bolliti. Professore, non capisco, con tutte le mani unte di mortadella, ma che schifo, sei riuscito a bocciarmi due palle. Io sono cresciuto giocando a bocce. Questa non è fortuna, caro Ignazio, questa è preparazione, è scelta tecnica, per questo vinco. Ma cosa hai vinto, che hai perso anche le elezioni quando fu? Io mi allenavo ad Alamein con le bocce di 20 kg. Io con 8 bocce non solo vincevo le partite, ma ci ho invaso anche l'Eritrea, caro mio. Ma qui hai invaso solo l'orto del vicino con ste bocce! E questo non è tirare le bocce, ragazzi! State facendo un bombardamento sulla Rosa Russo! E fanno anche male! Non rispettano nemmeno il turno! E questa è la palese dimostrazione che tirare di bocce non è mai stato il vostro mestiere! Ma adesso scusate, ma dov'è il boccino? Se Rosa continua a camminarci sopra coi tacchi, è normale che non sappiamo più dov'è. Ma per favore! Vuoi vedere che loro non sanno giocare? E adesso la colpa è pure mia! Rosa, mamma mia, quanto parli! Io direi di seppellirla con la testa scoperta e il boccino in bocca. Almeno prende le distanze delle palle, ma anche le misure delle sue parole. Ma mi sembra un'ottima idea per il futuro. Sì, ma intanto questa partita l'ho vinta io. E purtroppo no, non mi sa tanto che devo invalidarla. Non ci sono i fondi necessari per prendere la coppa. Ma io mi accontentavo di una mortadella. Uomo, ti senti solo, triste, depresso? Passi le tue giornate senza scambiare una parola con qualcuno nell'amarezza più totale? Allora assaggia l'acqua minerale Fonte Bacillo. L'acqua minerale che produce velocemente gravi problemi a tutto il tuo apparato digerente, obbligandoti così a lunghe degenze in ospedale, che ti permetteranno di conoscere nuovi amici e magari anche l'anima gemella. Acqua minerale Fonte Bacillo, torbida alla vista, spiacevole al sapore, ma utile per alleviare la tua solitudine. Acqua minerale Fonte Bacillo, perché la vita viene prima della salute. Platone, la caverna dell'informazione. E allora siamo qui a Platone, sempre a Platone, la caverna dell'informazione con Alessandro Milan. Adesso questo è un periodo, i primi di agosto, in cui le squadre anche di calcio hanno finito i ritiri estivi e si comincia a parlare di campionato. Sono usciti i calendari già del campionato di Serie A. Ho già visto il derby quando... Che è il 22 novembre, da sì, quale 23 parte? Novembre. 23 novembre, insomma. E noi abbiamo qui a Platone una esclusiva, insomma. La prima è Milan-Lazio, Ma io sono anch'io milanista, darei un bel X. Ma no, dai, iniziamo subito, cerchiamo di vincere almeno la prima, insomma, un bel uno tondo. Con Pippo Inzaghi. Pippo Inzaghi è fidanzato ancora con Alessia Ventura? Credo di no. No, no, no, si è Fabio fidanzato. Cantatore fa così dalla regia. Secondo no. me si è rimesso con lei. Alessia... Fabio Cantatore sa tutto. Alessia Ventura è una delle ragazze più belle no, che ho visto. Comunque no, non sono più in vita mia. So è fidanzato tu... forse con Fabio Cantatore, no? So Alessia che... Ventura. No. So che tu ci hai provato con Alessia Ventura. Con Inzaghi? Con no. Inzaghi, con no. Pippo Inzaghi. Sai no. che io una volta ho conosciuto una ragazza di Bergamo che ho frequentato per un breve periodo. Ma quante ragazze hai avuto? L'ho frequentata, non ci ho fatto niente. L'ho frequentata, ma basta, ci siamo visti. Lei mi portava in questi locali indie Bergamo, non è successo niente, neanche un bacio. Ma una sera lei, come motivo di vanto, mi ha detto: devo dirti una cosa. Qui una sera in questo locale ho limonato con Pippo Inzaghi. Ho capito. E lei me l'ha detto come nulla. Motivo, come Dio curriculum, no? Come curriculum. Sì, certo. Ha detto: io sono una che frequento persone di un certo livello, ho limonato con Pippo Inzaghi. Vabbè, e non la vedo più da anni questa. Esattamente. Comunque, da quella serata. Da quella sera, esattamente. E a proposito di calciatori, noi abbiamo una... uno scoop. Clamoroso. Uno scoop. Chi abbiamo? Chi abbiamo? Abbiamo uno dei calciatori di cui si parla di più Ma in Italia. Forse il calciatore di cui si parla di più. Che lui è? Mario Balotelli. Buongiorno. Buongiorno. Io parlo anche un po' in inglese because ho giocato in Inghilterra nel Manchester City, e così voglio dimostrare che ho messo a profitto quel periodo che è stato anche molto bello, very good for me. For you, for everybody, ecco, need somebody. Però, sì, Balotelli, l'avventura, yes, of course. L'avventura mondiale invece non è andata troppo bene. Ma diciamo che tutti hanno incolpato Balo, ma Balo è solo un centravanti, just a centravanti. Non è che tutte le colpe possono ricadere su Balo. Cioè, dire che è solo colpa di Balo è come dire che il Titanic ha affondato solo per la punta dell'iceberg. Io, ok, sono la punta, ma se non c'era tutto il resto dell'iceberg, la punta non affondava il Titanic. Ho fatto un paragone, paragon, sì. Senta, solo che voi eravate il Titanic, non l'iceberg. E questo non lo so, non l'ho ancora capito. Però sì, yes. È un bel paragone, ha fatto, anche intelligente soprattutto. È intelligente perché da quando mi sono fidanzato con Fanny Negheja ho messo la testa a posto. Infatti prima in macchina andavo sempre a 200 all'ora anche in città, adesso vado a 200 all'ora ma solo in autostrada, just in autostrada. Yes. Sì, ha proprio messo la testa a posto, proprio a posto. Da quando mi sono fidanzato con Fanny Negheja ho messo la testa a posto, the head post. Infatti prima cambiavo macchina una volta al mese, adesso cambio macchina una volta al mese, però prendo le chilometri zero. Che costano meno. Però intelligenza a picco proprio. Inoltre prima quando non giocavo andavo ogni sera in discoteca, adesso invece faccio le feste a casa così non devo rientrare, faccio a letto, vado a letto mezz'ora prima. Risparmia il tempo per andare a casa, certo. Senta, però cos'è che non è? The pen is on the table, sì. The window open. Parlo inglese perché ho giocato nel Manchester City. Cos'è che non ha funzionato nella spedizione mondiale? Se lo chiedono tutti gli italiani, Ma from my point of view la colpa è di Prandelli che continuava a farci cambiare modulo. Prandelli. Solo che i calciatori devono cambiare sempre fidanzata, ma giocare sempre con lo stesso modulo, altrimenti vanno in confusione. Effettivamente. Io invece stavo sempre con Fanny Negheja e continuavo a cambiare modulo. Capisci che è il mondo che gira al contrario. Senta, un'ultima domanda, che è la domanda che si pongono in tanti. Resterai al Milan, Balo? È difficile che resti al Milan perché Fanny Negheja vuole che metta la testa a posto. Ha detto che devo andare nella San Benedettese perché a San Benedettese ci sono meno tentazioni che a Milano. Perciò se la San Benedettese fa una buona offerta è probabile che vado lì. San Benedetto comunque sarebbe. San Benedettese. Grazie comunque per lo scoop e noi andiamo avanti con il programma allora. Grazie. Io vado avanti con Fanny Negheja. Ciao a tutti. Sì, ecco, va bene. Grazie, Balo. Balo. E allora abbiamo avuto questo scoop, Balotelli qui a Platone. Clamoroso. Che parlava anche inglese poi. Hai visto con che pronuncia poi. Per sfatare quello che si dice sui calciatori, che non sono preparati, che magari non parlano le lingue. Invece i calciatori parlano tante lingue, sentito la pronuncia perfetta di Balotelli. Allora, avevamo lasciato Ratko in autogrill, vediamo un po' che cosa, come evolve la situazione. Ratko. Come evolvusce. È qua sto manera. Ma sai che mi sono accorto che in autogrill esistono prodotti che trovi solo in autogrill, nessun'altra parte del mondo. Forse qualche posto in Guinea, insieme a civiltà ancora noi sconosciute. A cosa si riferisce di preciso, Ratko? Ma tutti, per esempio, questi tipi di pasta che non ho mai visto in tavola di italiani, spaghetti lunghi 6 metri, penne dei 7000 colori che non esiste neanche in natura. Ho visto dei conchiglioni così grandi, in maniera che se prendi uno vicino all'orecchio, non solo ci senti mare, ma te si riempie anche il salotto di sabbia. grazie. Che cos'è? No, niente. Per esempio, ho visto pepe, peperoncino, noce moscata a 20 euro. Adesso capisco perché chiamate droghe, perché costano uguale a droga. Grazie, arrivederci. Grazie. Ringrazio. Ho visto noce de prosciutto pepato, manera, sono anni che vedo noce de prosciutto pepato autogrill, ma non ho mai visto nessuno comprare, girano voci che è sempre stessa, noce de prosciutto pepato che autogrill se passano uno con l'altro, questo è... Grazie, arrivederci. È così. Ho visto una cesta piena di CD, De Mal, Pupo, Collage, Aluni de Sole, Denis Rousseau, Albano, a 1 euro. Che io ho anche preso uno CD che mi interessava, uno di, come si chiama, Orietta Berti. Sono andato a casa e mi hanno detto, no amico, troppo facile così. Offerta di 1 euro se te porti via tutta cesta, no uno. Grazie, arrivederci. Ma perché ogni tanto continua a dire grazie? Perché signori gentili mettono monetine sul piattino. Come in un piattino? Manera, ho visto che in questo grill da bagni mancava signora con piatino e mi sono messo io. È una maniera per pagare panino che soldi ho dimenticato in macchina. Cosa devo fare? Anzi, prima che vi saluto, grazie, arrivederci, prima che vi saluto anche voi, volevo dire a Alessandro Milan che stasera lo chiamo al suo cellulare. Sì, sì, ma non ha il mio numero di cellulare, come fa? Ma come no? Ho trovato il tuo numero, scritto su porta da bagno delle donne, sei l'unico che mette nome e cognome. Sì, c'era scritto, se cercate uomo con un pil importante, chiamate Alessandro Milan, e poi il numero che adesso non dico in diretta perché non è bella cosa. Ecco, grazie, magari. Ciao ragazzi! Ciao Ratko! Non sapevo di, ciao Ratko, non sapevo di queste tue caratteristiche, di queste tue tendenze, che andavi nei bagni degli autogrill delle femmine. Ma tu credi sempre a Ratko adesso? Io credo, perché... È il nostro inviato. Si vedono quelle scritte negli autogrill, in effetti una volta ho visto Milan, pensavo che fosse riferito alla squadra. Invece no, adesso capisco. Va bene, andiamo con qualche notizia, via, che le stiamo un po' trascurando le notizie. Allora, a proposito di vacanze, sì. Ci sono, il Corriere della Sera è uscito con le app imprescindibili da comprare. Ah. Sai, se hai un telefonino puoi prendere le app. Per esempio, trovami la medicina. Tu questa potresti utilizzare. Cioè, tu sei in giro, hai bisogno di una medicina. Esatto, c'è l'app. Oppure prezzi benzina, così sai dove puoi risparmiare. Oppure c'è questo Waze, questo ce l'ha mia moglie, una roba terribile sul traffico. Devi entrare in una community, ti dice dove c'è più traffico, dove c'è più traffico, le strade da fare. Una community che si consiglia, ti dicono anche gli autovelox. Vabbè, no, una cosa terribile, vabbè, entri in ansia abbastanza. Poi c'è, vabbè, TripAdvisor, se un classico, i ristoranti. Poi c'è questo Sit or Squat. Non so assolutamente cosa sia. Diciamo solo come si chiama: Sit or Squat. Va bene. Poi c'è Hotel Tonight. Vabbè, se vuoi cercare un hotel in zona, sono abbastanza normali. E vabbè, quelle imprescindibili. Fammi vedere questo Sit or Squat. Esattamente. Sit or Squat, c'è un simbolo un po' strano. Qualcuno di voi ha Sit or Squat? Scriveteci a Platone Tradio24.it e diteci cosa. Oppure sul nostro account Twitter Platone24. Esatto. Poi tra l'altro, a proposito di vacanze, sai che pare che vada di moda da parte di coloro che hanno un pochino di soldini in queste vacanze di ostentare la ricchezza. Che ne so, sei lì che fai una festa con 10 amici e vi bevete 7 magnum di Moët Chandon, pa! Stappi, fai la foto, fai vedere che tu hai 7 bottiglie. Esatto. Vaffanculo. Esatto. Però è una tentazione. Oppure c'hai l'orologio, c'hai il Rolex, mentre c'hai il costume firmato e il maggiordomo che ti spazzola alle spalle e in sottofondo il DJ privato. Bella lo foto, fai vedere su Instagram alla faccia della crisi. Sfigati, ecco qui. E c'è questa moda di l'ostentazione del lusso, schiaffeggiare la povertà. Chissà se anche quello è un peccato. Forse sì, agli occhi della Chiesa potrebbe essere un peccato. Insomma, siccome noi abbiamo un ospite fisso qui, che è Don Danilo, che parla come Papa Francesco, ma in realtà ha una visione completamente diversa, almeno per quello che abbiamo conosciuto fino ad ora, insomma, delle parole di Don Danilo, vogliamo sapere anche lui cosa ne pensa di questi peccati, di questi peccati estivi che caratterizzano un po' la nostra Italia. Don Danilo. Buongiorno, sempre felice di parlare. Buongiorno, qui a Platone con Radio 24 e con i vostri ascoltatori. Sì. Parlare dei peccatori d'estate che non vanno in chiesa. Ecco, d'estate i peccatori, cosa dobbiamo fare con questi peccatori? Niente. Poi quando tornano in città in autunno, durante la messa, durante l'omelia, bisogna aditarli a tutti, bisogna gridare i loro nomi dall'alto del pulpito e all'uscita dalla chiesa bisogna mettere il sacrestano a dare loro dei colpi forti sulla testa in modo che provino dolore, dolore forte, ma senza esagerare, perché in fondo sono dei peccatori, piccoli peccatori, ecco. Sì, vediamo qualche altro comandamento. Oppure, per esempio, c'è quell'altro comandamento che dice non desiderare la donna ad altri. A maniera questo, ma a chi non è mai capitato di desiderare la donna ad altri? È capitato a tutti, a Milan, è capitato anche a lei, Manera, lo so, lo leggo nei vostri occhi, e soprattutto d'estate quando le donne vanno in giro vestite seminude, in un modo che bisognerebbe prenderle e chiuderle davvero in un convento di clausura senza pane, senza cibo, con un burca di canapa addosso. Così imparano una buona volta per tutte come bisogna andare in giro. Perché se l'uomo desidera la donna ad altri. È vero che è colpa dell'uomo, ma è anche colpa della donna tentatrice, che invece dovrebbe stare bene attenta a quello che fa, altrimenti va presa e marchiata a fuoco sulla schiena, proprio per evidenziare a tutti che è una diavola tentatrice. E all'uomo che desidera la donna ad altri cosa bisogna dire? Bisogna assolverlo, dirgli: potevi pensarci prima e sposarti con una che ti piaceva e non con quel catafalco che ti porti appresso anche alla chiesa. Ma se proprio continua a desiderare la donna ad altri, ai, allora vuol dire che è malato. Allora va preso, chiuso in un convento e castrato fino a quando smette di avere questi pensieri tristi sessuali. Castrato e marchiato, ma con calma e con indulgenza. Perché in fondo siamo in estate ed estate anche la Chiesa deve essere più tollerante, come grazie. Dice Papa Francesco. Grazie Don Danilo per la sua tolleranza che emerge ogni volta dalle sue parole. Con gioia. E prima di continuare a parlare di sanità pubblica, noi invece vogliamo lanciare il gioco che lanciamo tutte le settimane, quello della parola intrusa. Abbiamo qui il nostro Danilo Vizzini. Salve a tutti, pronti già per lanciare la nuova che canzone. Che canta un pezzo di canzone a cappella, cioè senza accompagnamento musicale, sì. E voi dovete indovinare qual è la parola intrusa, poi scrivercela al nostro indirizzo di chi posta elettronica platone@radio24.it oppure il nostro account Twitter platone24. Il premio qual è? Non lo sappiamo neanche noi, ma sì. Prima o poi un premio ci sarà. Qual è la canzone, Danilo? È questa, di Mina e Celentano. Prego. Semplici un po' banane, io direi quasi imprevedibili e sempre uguali, sono fatti tutti così gli uomini e l'amore. Come vedi tanti aggettivi che si incollano su noi, dai che non siamo poi cattivi. Questa era la canzone a cappella cantata da Danilo Vizzini. Indovinate qual è la parola, le parole sbagliate, scrivetecelo qui. Noi ci fermiamo, ci ritroviamo invece fra poco con la sanità pubblica e il dottor Mazza. Uomo, hai subito un trauma che impedisce alle tue papille gustative di distinguere i sapori? Mangi senza gioia? Per te un piatto vale l'altro perché ormai sei impossibilitato a cogliere le differenze? Allora assaggia la mozzarella Cinisello. Mozzarella Cinisello, la mozzarella per analogia. Disponibile in diversi colori, elastica, estensibile, con un inconfondibile retrogusto di gasolio. Mozzarella Cinisello, la mozzarella da gustare quando le tue papille gustative non hanno più niente da dire. Consigliata anche dai migliori cuochi di Parigi. C'est magnifique. Platone, la caverna dell'informazione. Allora, Ale, prima stavamo parlando di corpo, macchina perfetta. Esatto. E purtroppo d'estate ci sono tanti infortuni perché molti giocano a pallone, fanno sport che durante il resto racchettoni sulla spiaggia, pallavolo, a beach volley sulla spiaggia e si infortunano. E quindi vanno al pronto soccorso con problemi di vario tipo molto più spesso che nel resto dell'anno. E noi siamo in collegamento settimanalmente con un medico di pronto soccorso per sapere come va. Esatto, si tratta del dottor Mazza, al quale do il ben ritrovato. Buongiorno dottore. Buongiorno a lei Milan. Come sta? Al lavoro, sono sempre al lavoro al pronto soccorso. In questo periodo abbiamo una iperproduzione del lavoro. Dobbiamo lavorare più del solito perché vengono continuamente dei pazienti. Settimana scorsa è venuto un paziente con una gastroenterite, necessitava di una lavanda gastrica, ma la macchina per la lavanda gastrica non c'era. E quindi? L'aveva preso il primario per innaffiare le piante del terrazzo. Allora abbiamo preso il paziente e l'abbiamo portato a fare la lavanda in un'azienda agricola con un idrante industriale che si usa per lavare i tori. Ma i tori? Ma noi come i tori? Come non c'era l'ambulanza, io e la caposala siamo andati in scooter, gli abbiamo detto al paziente di correrci dietro. Correva così forte che ha ricevuto una telefonata di complimenti anche da parte di Usain Bolt. Arrivati all'azienda agricola abbiamo preso la canna per i tori, mentre due mezzadri lo tenevano fermo gli abbiamo infilato la canna nello stomaco mandando dentro antibiotici, antidolorifici e Cilit Bang. Il paziente gridava così forte che le mucche per lo spavento hanno fatto il latte parzialmente scremato. Alla fine del trattamento il paziente non presentava più sintomi addominali, ma ridotto in condizioni così pietose che curarlo sarebbe costato troppo. Quindi? Le mucche che lo vedevano non facevano mu, facevano ma. Perciò l'abbiamo vestito di rosso e lo abbiamo abbandonato ai tori. No, ma dottor Mazza, ma... Sul necrologio abbiamo scritto: lascia una moglie e una mandria. Ormai la salute è diventata una cosa da ricchi. L'unica consolazione è che nella vita prima o poi tutti dobbiamo morire. E venendo da noi può succedere prima del previsto. Mi sembra di capire. Arrivederci. Sì. Arrivederci. L'aspetto al pronto soccorso. Sì, sicuro. Quando vuole. Vediamo che abbiamo sempre un trattamento particolare, mi raccomando. Sì, quello da Tori. Arrivederci. Arrivederci. Lascia una moglie e una mandria. Evviva! Evviva! Insomma, l'estate è il periodo in cui ci si trova spesso al pronto soccorso, però adesso vogliamo parlare di qualcosa di più leggero, perché qualche anno fa negli USA un team di ricercatori è riuscito a creare un contraccettivo che dura fino a 16 anni. L'anticoncezionale è telecomandato e viene inserito sotto la pelle nella zona delle natiche, dell'addome, delle braccia e, essendo telecomandato, si può disattivare quando si desiderano dei figli per poi riattivarlo. E noi abbiamo oggi la fortuna di avere qui con noi in collegamento un nostro concittadino che abita negli USA e che l'ha provato. Buongiorno al signor Mario Rossi, buongiorno Manera. No, insomma, signor Mario Rossi, insieme alla sua signora, lei è stato il primo, tra Mario Rossi, vabbè, in America. Comunque, lei è stato il primo a provare questo tipo di contraccettivo quando era ancora in fase sperimentale. Come si è trovato? Bene, bene, Manera. A parte che essendo in via sperimentale all'inizio qualche problemino ce l'ha dato, però... Problemino di che tipo? Matteo. Il problemino si chiama Matteo, ma poi hanno corretto il tiro, insomma. Vabbè, insomma, capisco, però alla fine un figlio riempie la vita, diciamo. Uno sì, ma di più riempiono la casa. Matteo, guarda che tuo fratello sta cadendo al seggiolone. Quindi sono due bambini. Sì, sì, sono due, i maschi sono due. Matilde, no, vai via dai fornelli. Sara, per piacere, dai. Sì, quindi contando i nomi sono dunque due maschi, direi due femmine, giusto? No, tre femmine, se conto quella che mi sta vomitando in braccio. Scusi, sì. Manero, un attimo, ma... Cinque figli. Non direi proprio che l'anticoncezionale funziona alla perfezione. Sua moglie cosa dice? Beh, saperlo, è dalle due che è in sala travaglio. Vabbè. Sono anche un po' preoccupato. Senta, vuole dare qualche consiglio ai nostri radioascoltatori? Sì, certo, guardi, funziona, perché veramente funziona. Solo dico una cosa per l'anticoncezionale: cambiate spesso le batterie del telecomando e soprattutto non comprate le IKEA che non durano un cazzo. Vabbè. A questo punto saluterei il signor Mario Rossi. Sì, perché uno mi ha cagato addosso, scusi, grazie. Sì, gli farei gli auguri per tutta la sua famiglia. Grazie signor Rossi, saluto anche a tutta la famiglia. Io ho perso il conto, però me ne ero capito quanti ne aveva, perché... sicuramente erano più di 5, sicuramente forse 6 o 7. Noi vogliamo concludere anche questa puntata parlando di televisione, perché la televisione anche d'estate non va in vacanza. Magari alcuni si lamentano delle repliche che vengono mandate in onda, però insomma la televisione è una compagnia anche per chi rimane a casa. Ma certo. E non se ne va, e poi vissuta come l'abbiamo noi con il nostro storico, certo, e critico televisivo, il professor Limoncelli che è tornato a trovarci. Buongiorno professore. Ma buongiorno a voi, sono il professor Limoncelli, critico e storico televisivo di altissimo livello. Altissimo. Senta professore, oggi la non TV... Non so perché voi mi chiamate, una trasmissione così bassa, così spiacevole, così discutibile come la vostra. Vabbè. Che si permette di disturbarvi, di telefonarvi mentre io mi sto occupando di storia critica della televisione. Però noi la ringraziamo per essere altissimo qui. Altissimo livello, sono intellettuale, voi siete dei guitti. Dei guitti senza storia. Dei guitti da spettacolo. Senta, professore, oggi la televisione... Spiacevoli, lo so. Persone assolutamente prive di ogni cultura. Questo è fuori di dubbio. Oggi la televisione ha ancora un senso o è stata superata in corso da tutti gli altri mass media? Ma guardi, naturalmente oggi la televisione ha ancora un senso nella misura in cui ci sono critici come me che vengono pagati per commentarla. Ah. La televisione ha un oltre e un quando che non si snatura semplicemente con l'avvento di altri mass media più o meno popolari. Mi lasci dire, la televisione ha un quando e un perché anche e soprattutto nell'interfacciarsi con altri mezzi apparentemente più moderni, ma che in realtà subiscono la apocatastasi del mezzo primario in una specie di capro espiatorio del mezzo originario. Lei sì. Mi capisce? Quindi? Delle bellissime parole che lei sicuramente non è in grado di comprendere, no, infatti, se... della sua ignoranza. Ce ne può spiegare? Cos'è? Quindi ho detto una montagna di stupidaggini. Ma è bellissimo che stiate ad ascoltarle. E poi, come sempre, cito termini che voi, popolino ignorante, non siete in grado di interpretare e di riconoscere. Ad esempio, apocatastasi. Lei sa cosa significa apocatastasi? No, effettivamente. Sicuro no. Lei sa cosa significa ubertescolo? No, sono sicuro di no. Lei sa cosa significa sbindello? Sono sicuro di no. No, infatti. Anche perché due di questi tre termini sono assolutamente inventati. Ma io li butto qua e là nelle mie conversazioni. Faccio sempre una grandissima figura. Due su tre. Ubertescolo. Quale dei due dei tre, vabbè, insomma. Pensa, solo apocatastasi è quello vero, ma lei naturalmente lo conosce. Non lo so. Una persona totalmente priva di cultura. Vabbè, lei fa grandissime figure, per esempio? Per esempio, quando dico questa trasmissione si rifà senza ombra di dubbio a un chiaro e netto principio ubertescolo dei mass media, che non vuol dire niente, è una stronzata assoluta. All'interlocutore ha paura di chiedermi significato perché teme, come a lei spesso capita, di fare brutta figura e così mi lascia dire un monte di stronzate senza nessun significato. Effettivamente un po' di timore io ce l'ho, un po' di riverenza. Va bene, senta, allora, visto che noi ogni settimana le chiediamo quali trasmissioni vale la pena guardare e quali vale la pena non vale la pena guardare, ecco, partiamo dalla seconda. Durante l'anno quali trasmissioni bisogna lasciar perdere? Ma personalmente lascerei perdere le fiction storiche, quelle ricostruzioni in costume costosissime peraltro, dove bisogna lasciar passare due o tre puntate prima che i protagonisti, il belloccio e la smandrappata di turno, arrivino a limonare. Trame scontate, dialoghi inesistenti, recitazione approssimativa e oltretutto con pochissimi centimetri di coscia da vedere. Ecco. Mi lasci dire. E quindi? E quindi molto meglio dedicarsi ad altri programmi, per esempio quelle che ho appena visto su una nuova piccola emittente del digitale terrestre, Teleintimo. Trasmissioni dove ci sono le confessioni private di una serie di smandrappate che raccontano per filo e per segno le loro esperienze più intime, cose molto piccanti, però per motivi di privacy hanno gli occhi coperti da due piccole strisce nere, ma sono nude su tutto il resto del corpo. Le si vede perfettamente nei minimi particolari, anche perché la telecamera indugia particolarmente proprio nelle intimità più segrete. Ecco, insomma, scusi, è l'aspetto educativo, cioè quello per cui vale la pena pagare il canone, dove sarebbe? Ma se devo essere sincero, francamente non lo so, ma dopo aver visto una puntata intera di confessioni private è una domanda che non mi pongo. Mi va benissimo così. Ecco, appunto. Allora la ringraziamo, professore, grazie a voi, e ricordate, non ascoltate Alessandro Milan. Mai. E sintonizzatevi immediatamente già stasera sulla fantastica Teleintimo. Grazie. Confessioni private. Questo era il nostro professor Limoncelli, critico e storico della televisione, sempre benevolo. Sempre benevolo nei tuoi confronti, devo dire. Mi vuole un bene dell'anima. Comunque noi anche per oggi abbiamo terminato la nostra puntata. Ringraziamo Fabio Cantadori in regia, Guido Scotti che cura il programma, Danilo Vizzini e Luca Clobas insieme a noi due che fanno materialmente, insomma, la trasmissione. Vi diamo appuntamento a sabato prossimo, puntuali, fissi alle 9 di mattina, e la domenica in replica alle 18. Ciao, grazie. Okay.